Smart Mobility, pillole di ecomobilità intelligente. Buon pomeriggio a tutti e bentornati con le nostre meravigliose pillole di ecomobilità con Gringo. Sono Irene Papotti di Radio Città Fujiko e come al solito sono contentissima di ospitare Federico Angeli di Gringo, il proprietario. Ciao Federico. Ciao a tutti, ciao Irene. Allora, oggi volevamo un po' parlare di prospettive, no? Di cambiamento, futuro e evoluzione, no? Adesso io non so perché sto pensando quando guardavo da piccola il pianeta del tesoro, no? Quello della Disney, in cui c'erano tutti questi mezzi, no? Vedevi gli skateboard volanti, no? Allora io volevo sapere un pochino come negli ultimi anni si è un po' evoluta anche l'estetica, no? Di questi mezzi di cui tu ti occupi chiaramente e come secondo te arriveranno ad apparire, come funzioneranno, perché ovviamente qui, cioè, non è che stiamo parlando solamente di adesso, ma come si sta... Certo. Evolvendo, no, questo percorso di ecomobilità. Quindi non lo so, tra 5 anni possiamo sperare di vedere un monopattino che vola? Oddio, monopattino che vola non si sa, sicuramente direi di no. Accidenti. Però sicuramente un design sempre più futuristico, assolutamente sì. Cioè, il concetto di base, non ci sono freni al futuro. Sicuramente io quello che ho visto negli ultimi 5 anni è una trasformazione in sicurezza di tantissimi progetti iniziali che poi si sono evoluti al punto da diventare veramente anche delle piccole opere d'arte. Ti faccio qualche esempio. Se pensiamo alla classica, diciamo, city bike, uno identifica come modello l'olandesina classica, no? Oppure la classica bicicletta da uomo con il cannone centrale per muoversi in città. Bene, queste erano, diciamo, gli stereotipi classici del modello da donna e da uomo della bicicletta. Poi le case costruttrici hanno iniziato a elettrificare, quindi a dotare di motore a pedalata assistita questi mezzi, e innanzitutto da un punto di vista della sicurezza ovviamente hanno introdotto sistemi al pari di uno scooter. Cioè, esistono i bike con i freni idraulici, quindi che hanno degli spazi di frenata, e quasi tutte le bike, anche quelle più economiche, hanno già il freno a disco. Quindi ovviamente non è un freno a disco meccanico, non è un freno a disco idraulico nei modelli più low cost, però in tutti i modi comunque è sempre meglio che il classico tappino, no, a panetto della bicicletta che magari avevi in cantina anche tu. Quindi sicuramente l'evoluzione è andato verso una trasformazione di un concetto iniziale originale verso una sicurezza maggiore, ma poi da lì si sono sbizzarriti i designer più incalliti facendo delle vere e proprie opere d'arte. Pensa ad esempio alle mountain bike, che tu adesso le vedi, non hanno nulla a che vedere con la mountain bike iniziale dei primi anni 80. Cioè oggi hanno dei design che sono veramente delle linee che sembrano delle moto da cross, biammortizzate, con delle ruote anche da 3,2, cioè, ma voglio dire, quindi sono sicuramente dei prodotti di alta ingegneria, per poi arrivare alla linea che piace di più al mondo dei nostri clienti. La cosa che piace di più è la bicicletta vintage trasformata in elettrica. Pensa alla famosa Graziella. Benissimo, la Graziella elettrica ha mantenuto ovviamente il classico design della Graziella anni 70, ma ha delle dotazioni di sicurezza e anche un'ingegneria di sistemazione della batteria, equilibratura dei pesi, eccetera, che non ha nulla a che vedere dal se tu prendessi la tua vecchia Graziella muscolare e comprandolo su Amazon ti compri un kit di trasformazione. Quindi di fatto possiamo riassumerla in un qualche modo, diciamo che c'è una tendenza a mantenere le caratteristiche originarie per far sì che ci sia un riconoscimento delle origini, quindi mantenere una tradizione che però punta, diciamo, a un utilizzo innovativo del mezzo, che quindi facilita, perché facilitare ormai è una delle parole chiave nell'ambito della mobilità, ma non solo, anche della tecnologia in generale, e quindi diciamo che si va verso un ibrido, cioè verso una visione. Bravissimo. Che cerca di abbracciare tutte le necessità possibili senza dimenticare però da dove veniamo. Corretto, corretto. Molto molto interessante. Quindi, cioè, mi stai dicendo che adesso, se a me viene il prillo e decido che voglio la mia bicicletta, perché sappiamo che io sono per il team bicicletta come ho già fatto presente più volte, dico: Federico, allora a me piace mi piacciono gli ACDC, vengo da te, mi fai la bicicletta con il logo degli ACDC. Lo facciamo, quello è il servizio di customizzazione. Benissimo. Una cosa in più. Tra l'altro, ricordiamo, visto che una delle problematiche che si facevano presente legate alle biciclette è che se io personalizzo la mia bicicletta, per la quale ho speso anche dei soldi, se la personalizzo è anche più difficile che me la rubino, perché diciamo comunque, che è un deterrente al furto, sì, assolutamente, quindi, sì. In realtà, quindi sì, siamo molto favorevoli, esatto, no, alla personalizzazione. Poi se te la vogliono rubare, poi te la rubano lo stesso. Vabbè, però, però diciamo che tu la puoi identificare meglio quando vai alle forze dell'ordine a denunciarla. Certamente. Assolutamente sì. Noi comunque, come al solito, ricordiamo a tutti che ormai ci sono diventati amici, che Federico aspetta sempre scalpitante di fare una bellissima chiacchierata su design, futuro, possibilità, perché è appassionato del suo lavoro e lo fa in via Bellaria. In via Bellaria c'è sempre un team molto caloroso che aspetta chiunque, lo riconoscete perché ovviamente, come dice il nome, è green, quindi esatto, lo vedete per forza, è una bella macchia di colore. Federico vi aspetta via Bellaria, in via 3/2, vi aspettiamo. Grazie, grazie. Un bacione.